Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. È lunedì, nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, parliamo di automobili e di fisco questa mattina. Sì, parliamo di automobili proprio perché c'è uno studio che è stato poi anche interpretato dalla CGA di Mestre, in cui si è andati un po' a quantificare come il peso del fisco va ad abbattersi su un comparto, quello delle quattro ruote in Italia. Certamente dati che, come al solito, quando si tratta di tasse di rilevanza in termini percentuali, fa balzare sempre l'Italia ai primi posti dell'Europa, per non dire del mondo, e di cui adesso possiamo divertirci a commentare, in quanto penso che ciascuno di noi abbia un'automobile e in queste cifre sicuramente si potrà trovare. Sì, penso che se uno fa due conti della, come si dice, della serva, no? Ha il bollo auto, l'assicurazione, i tagliandi di revisione, poi metti che c'è qualcuno che ti fa lo striscetto apposta vicino di casa o chi altro, la benzina, i costi vari di accessori, vedi batterie, olio e quant'altro, ti fai due conti e una macchina costa veramente tanto. Sì, costa veramente tanto, dal punto che costa che per il governo italiano significa per lo Stato un'entrata di 72 miliardi di euro all'anno. Addirittura un dato che supera un dato di 20 volte maggiore della TASI pagata fino allo scorso anno dai proprietari di prima casa e addirittura più del doppio dell'IRAP, infatti l'IRAP per 30,4 miliardi, che è una tassa, ricordiamo, versata dalle imprese. Quindi sicuramente i soldini che entrano nelle casse dello Stato in maniera molto incisiva, e che certamente dell'automobile sappiamo che in Italia ormai sta diventando sempre più un bene di lusso. Tu hai parlato giustamente di quelli che sono i costi della gestione, hai parlato giustamente anche del carburante, io aggiungo anche di tutte le accise poi che compongono il costo del carburante, perché noi stiamo parlando di quello che entra allo Stato, non di quello che poi costa al cittadino. Ma ci sono anche i pedaggi autostradali, c'è stato un vero e proprio boom, e garantisce un gettito fiscale di 1,8 miliardi di euro. Poi ci sono addirittura le imposte di trascrizione provinciali, quando la provincia è stata sono state eliminate sostanzialmente, e ricordiamo anche come le vetture in Italia risultano oggi essere 610 per 1000 abitanti. Anche questo è un settore molto importante e soprattutto significativo per lo Stato e per quei quattro soldi che insomma ci rimangono e che siamo costretti ormai ogni giorno a spendere per mantenerla. Ecco, c'era questa notizia che era un po' rimbalzata i giorni passati, l'idea di tagliare il bollo auto, no? C'era questa idea del governo e di aumentare la tassazione proprio della benzina. Facendo così verrebbero a pagare non più il bollo, magari chi è proprietario di tante macchine e che poi ne usa una alla volta effettivamente, e l'idea che si vuol far passare è che si paga un tot per quanto uno utilizza l'auto alla fine. Sì, anche noi stiamo seguendo questa proposta che, ricordiamo, oggi è ancora ferma sul tavolo. Non so dirti veramente in onestà se questa proposta risulta adeguata a quelle che sono la maggior parte degli esigenti degli italiani, in quanto non sappiamo se andrà a beneficiare chi ha l'auto di grossa cilindrata rispetto a chi invece magari ha un'auto piccola e fa tanti chilometri per andare a lavorare. Certamente riteniamo che se si decide di eliminare il bollo e aumentare le accise, riteniamo la cosa una provocazione, perché le accise inutili che paghiamo sono già tante, per cui basterebbe semplicemente, per buon senso, destinare già quelle che oggi non hanno senso, come la guerra in Etiopia, la ricostruzione in Friuli o qualsiasi altro tipo di accisa che ormai continuiamo a pagare da decenni e decenni senza capire cosa realmente stiamo pagando. Poi, per quanto riguarda i soldi che entrano nelle casse dello Stato per effetto di questo mezzo, dobbiamo anche tener conto di quelli che sono gli introiti che ne derivano per effetto delle multe e delle sanzioni, ma anche dei parcheggi a pagamento, che anche questi garantiscono di bei miliarducci di euro e che contribuiscono a svuotare le tasche dei cittadini. È vero, perché poi non ci pensiamo, tu hai citato le autostrade e devo dire che quando vado in autostrada e pago anche fior di euro, mi dà molto fastidio perché immagino che alcune autostrade sono vecchie di chissà quanti anni, ovviamente sono state strapagate e ripagate da noi italiani prima con le tasse e poi ancora diventano un guadagno molto importante per alcune società. Ricordiamo che i costi di pedaggi sono tra i più elevati in Italia. Come hai detto te, è un pedaggio paradossale perché è stata pagata e ripagata tantissime volte. Poi ci sono dei tratti come quello per esempio che collega Venezia con Padova, che ormai si è perso conto per ogni chilometro quanti consiglieri di amministrazione andiamo a pagare rispetto a quelli che siedono su queste comode poltroncine di cui oggi non si capisce ancora che significato hanno. Certamente tutto un assieme di cose che alla fine ha come unico scopo quello di tassare il cittadino, ma soprattutto di rendere l'automobile uno strumento di strozzinaggio, diciamo, dal punto di vista fiscale, perché ormai credo che chiunque di noi, dal momento che acquista un'automobile, ha come detto per mantenerla, ma quelli che sono poi i costi di gestione, a quelli che sono poi tutti i costi degli accessori e tutti gli imprevisti che capitano durante il possesso del mezzo, certamente in un bilancio familiare incide tantissimo. È anche vero che comunque in Italia ne abbiamo tantissime e rispetto alla media europea siamo tra i paesi che abbiamo più automobili in circolazione. Vabbè, continuiamo a seguire il discorso, se ci saranno novità torneremo senz'altro a parlarne. Grazie al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini, al prossimo appuntamento. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.